Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Ogni settimana una parola per spiegare ai più piccoli grandi temi di Expo. Questo è Terra in Vista. Federico Taddei e Telmo Pievani, ciao Telmo. Ben trovato, ciao. Eccoci qua, la parola di oggi è una parola che ci tocca da vicino perché è la nostra quotidianità. Abbiamo scelto clima. Clima, sì. La terra in vista, la terra ha un'atmosfera e quindi anche un clima. E c'è un rapporto strettissimo ovviamente tra il clima e l'uomo. Ma partiamo dai più piccoli, dai veri protagonisti. A un po' di bambini abbiamo chiesto di spiegarci questa parola clima, queste le loro risposte. Il clima è il tempo, ad esempio d'estate il clima fa caldo e invece in inverno fa freddo. Il clima è la temperatura. Se la temperatura mite vuol dire che è variabile. Serve anche per far crescere frutti e piante. È il tempo. La temperatura che fa in un luogo. In uno può essere un clima caldo, per cui è sempre caldo e piove poco. Invece in un altro può essere freddo. Il clima è il tempo meteorologico. Praticamente se è caldo, freddo, tiepido. Il clima è l'aria, il clima freddo lo fanno le nuvole, la pioggia, la grandine. Invece il clima caldo lo fa il sole. E il clima mite vuol dire che c'è un po' di sole e un po' di nuvole. Tipo il clima caldo, quando noi sentiamo caldo è il clima caldo, il clima freddo quando noi abbiamo freddo, che la temperatura si abbassa. Abbiamo sentito, il clima è il tempo, il clima è la temperatura, il clima è l'aria, il clima è il caldo, il freddo è il tiepido. Insomma, definizioni molto da vita quotidiana. Ma è questo il clima? Qui c'è dentro tutto nelle risposte dei bimbi. Però direi no, in questo caso il linguaggio ci trae in inganno, perché il clima non è il tempo, non è il tempo che fa, non è nemmeno la singola stagione che stiamo vivendo. Il clima è una cosa molto più complicata, si misura sul lungo periodo, riguarda le condizioni globali, è il tempo medio, potremmo dire, sul lungo periodo. Pensa che si può parlare di clima soltanto dopo almeno 30 anni che lo hai osservato storicamente. E i fattori che incidono su queste condizioni ambientali, atmosferiche, sono tantissimi: il sole, la latitudine, l'umidità, le correnti oceaniche, quelle atmosferiche. È una rete di relazioni complessissime che gli scienziati fanno un sacco di fatica a prevedere. Infatti tu prova a chiedere a qualcuno che tempo farà fra un mese o anche solo due settimane, nessuno scienziato te lo sa dire. Ecco, ma uno scienziato è più interessato al clima che è stato o al clima che sarà? Quello che è stato è interessantissimo. Pensa che si fanno delle carote, si dice, nel ghiaccio, si vanno a prendere questi strati profondi del ghiaccio per vedere che tempo ha fatto addirittura decine, centinaia di migliaia di anni fa. Che tempo che farà? Sì, pure ci preoccupa un po', perché adesso il clima sta cambiando e quindi non sappiamo bene dove stiamo andando. E tu, Telmo, sei un esperto di storia dell'uomo, dall'uomo primitivo in poi. L'uomo è sempre stato interessato al clima? Diciamo che l'uomo lo ha subito per tanto tempo, nella famosa era glaciale, e poi ha imparato ad addomesticarlo un po', cioè a fare i conti, ha imparato a vestirsi, a costruire delle case per resistere ai cambiamenti del tempo. Il clima, grande protagonista quindi di questa puntata di Terra in Vista. Una filastrocca, il traffico e poi eccoci qua. Filastrocca del sole. Sole che ridi e mi baci la faccia, sento il calore delle tue braccia, con una mano mi copro gli occhi mentre mi tingi di scarabocchi, macchie, lentiggini e piccoli nei, tutti i tuoi segni saranno miei, saranno di tutti, saranno belli, racconteranno che siamo fratelli, figli del mondo e come ogni gente nati dal tutto e dal niente. Coop ti aspetta nel supermercato del futuro, in Expo Milano 2015. Vi presenta Terra in Vista. Andiamo quindi alla scoperta del clima. Abbiamo capito che cos'è, adesso andiamo a vedere appunto cosa sta succedendo al nostro clima e perché, e lo facciamo ovviamente con le domande dei bambini. Questa è la prima. Perché se il clima cambia è pericoloso? È l'ovvietà delle domande dei bambini che ci spiazza, no? E, insomma, ci fa aprire. Abbiamo visto tutti l'era glaciale, cioè il clima cambia, è normale, no, Telmo? E poi ormai tutti, anche i bimbi, sentono parlare di riscaldamento climatico, cerchiamo di capire cos'è. Esatto, lo facciamo con uno dei massimi esperti dell'argomento. Diamo il benvenuto a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Ciao Stefano, benvenuto a Terra in Vista. Benvenuto. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, perché è pericoloso, appunto, se il clima cambia? Perché questo allarme? Non è normale che ci sia un cambiamento climatico? Ah, ci sono diversi motivi per cui è pericoloso questo cambiamento climatico in corso. Noi siamo abituati a questo clima, ed è vero che nel passato ci sono stati altri cambiamenti, ma il primo motivo per cui lo dobbiamo considerare pericoloso è che questi cambiamenti sono più rapidi e più intensi del passato. Uh-huh. Quello che è già successo, quindi l'aumento della temperatura di circa un grado rispetto al livello di un paio di secoli fa, e quello che è atteso per il futuro, un altro grado o altri due gradi, sono un qualcosa che in un solo secolo, in così poco tempo, non abbiamo traccia nel passato. Quindi il primo motivo è che sono cambiamenti più veloci e quindi facciamo più fatica noi, ma anche le altre specie viventi, ad adattarci se i cambiamenti sono molto rapidi. Ok, questo mi sembra un ottimo motivo. Il secondo motivo è che oggi siamo in 7 miliardi, più di 7 miliardi sul pianeta, e le nostre società sono fragili, le città sono vulnerabili. Quindi non possiamo utilizzare le tecniche che hanno utilizzato i nostri antenati del passato, di molti secoli o millenni fa, per adattarsi ai cambiamenti climatici. La tecnica una volta era quella di spostarsi dove il clima era più adatto. Adesso mm-hmm. questo facciamo fatica a farlo, lo vediamo già anche in questi mesi, qual è il problema già anche delle migrazioni che ci sono in corso, che sono soltanto in parte naturalmente dovuta al cambiamento climatico. L'ultimo motivo per cui è pericoloso questo cambiamento è che una parte di questo cambiamento è sostanzialmente irreversibile per i tempi delle nostre vite, per i tempi della storia umana. Questa è una cosa di cui si parla poco, va ricordato che il cambiamento delle temperature che noi stiamo provocando durerà per secoli e secoli, per almeno un millennio. E in questo sta anche la sua pericolosità. Quindi il clima cambia lentamente, ha dei tempi lunghi, però noi adesso lo stiamo accelerando come non era mai successo prima. Quindi noi possiamo fare qualcosa oggi che avrà degli effetti per i nostri nipoti o per i nipoti dei nostri nipoti. Questo ci viene difficile, no? Noi non siamo tanto lungimiranti, noi Homo sapiens. Che ne dici? Eh sì, dobbiamo proprio fare qualcosa senza vedere subito i risultati di quello che facciamo. Questo per i problemi ambientali è abbastanza insolito. Di solito se noi ci occupiamo di disinquinare un fiume, quindi ci occupiamo di impedire uno scarico di acque inquinate in un fiume, vediamo subito, magari dopo poche settimane, dopo pochi mesi, l'effetto positivo, l'effetto benefico, il fiume diventa pulito e ci possiamo fare il bagno. Magari i tempi un po' più lunghi sono per i recuperi di un lago. Però qui abbiamo davanti invece diversi decenni e quindi dobbiamo sostanzialmente fidarci della scienza, che ci dice che se noi non agiamo abbiamo dei danni maggiori rispetto al fatto che se noi invece mettiamo in campo delle misure e otteniamo dei risultati che vedranno però chi verrà dopo di noi. Stefano, ti riporto a quel un grado in più, perché magari uno ascolta e dice vabbè, un grado in più cosa cambia? Cioè non è che se ci sono 27 gradi o 28 gradi io sento così tanto la differenza. Invece un grado può essere fondamentale per la storia dell'uomo. Sì, se noi guardiamo ad esempio le variazioni delle temperature negli ultimi mille anni, qui grazie ai paleoclimatologi che fanno degli studi ad esempio sui ghiacci e riescono a ricostruire sugli anelli degli alberi, lo spessore degli anelli degli alberi che è collegato con le temperature del pianeta, ecco, i paleoclimatologi ci dicono che nel passato le variazioni sono state contenute. Se noi prendiamo gli ultimi mille anni, fa il periodo un po' più caldo intorno al Medioevo, il periodo un po' più freddo intorno al 1700-1800, la differenza era di meno di mezzo grado. Quindi sicuramente questo cambiamento che c'è già stato è un qualcosa che è uscito dalla variabilità naturale del clima. Ricordiamo che il clima è il tempo medio, quindi mentre fuori dalla finestra il tempo ci può cambiare di 5 o 10 gradi da un giorno all'altro, il clima medio, quindi su un periodo molto lungo e su uno spazio molto grande, anche mezzo grado può essere un qualcosa che innesca dei fenomeni, dei meccanismi che poi hanno delle altre conseguenze. Grazie davvero a Stefano Caserini per averci spiegato perché se il clima cambia è pericoloso. Ciao Stefano, buon terra in vista. Ciao, a presto. Arrivederci, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Turchia. La Via della Seta, che era lunga 6.450 km e collegava Asia, Europa e Africa settentrionale, contribuì non solo allo sviluppo dei commerci tra queste aree geografiche, ma anche all'incremento delle interazioni tra i popoli che le abitavano. La Turchia rappresentava uno degli ultimi punti di passaggio prima che la Via della Seta raggiungesse l'Europa occidentale e l'Italia. Ed era un vero e proprio crocevia di civiltà, anello di congiunzione fra l'Oriente e l'Occidente. Grazie alla Via della Seta, i popoli hanno potuto scambiarsi molti doni, come lingue, religioni, usi, costumi, tecnologia, scienza e anche cibi. Tra questi, le più durevoli e facili da trasportare erano le spezie, che dall'Oriente si sono presto diffuse in tutto l'Occidente. Expo Pub, le curiosità direttamente dai padiglioni di Expo a terra in vista. Ma torniamo a parlare di clima e di cambiamento climatico. Mi chiedevo, scusa, ma non è che nell'era glaciale all'uomo sono cresciuti i peli, così aveva meno freddo, oppure col sole ci siamo abituati? Cioè, quanto siamo cambiati noi in conseguenza ai cambiamenti climatici? Beh, non ha fatto in tempo a mettere la pelliccia, perché aveva le pellicce artificiali che ricavava dagli altri animali. Questa Giusto. È stata la nostra grande strategia. Però è vero, l'evoluzione umana è sempre stata caratterizzata da un clima che cambiava, e l'era glaciale era proprio questo. Noi siamo i figli dell'era glaciale, perché noi ci siamo evoluti come genere Homo negli ultimi 2 milioni di anni, nel cosiddetto Pleistocene, che è proprio l'era delle continue ere glaciali interrotte poi da fasi più calde. Quindi il clima cambia da un sacco di tempo, solo che adesso siamo noi che lo facciamo cambiare in un modo molto più rapido. Quindi noi siamo figli di questa storia, figli del fatto che l'Africa ha cambiato di clima. Noi siamo rimasti bloccati nella parte orientale della Rift Valley, dove la foresta ha lasciato spazio alle praterie erbose e poi alla savana. E pensa che anche il Sahara è stato importantissimo. Adesso noi vediamo il Sahara come un grande deserto. Questa è la situazione attuale del clima terrestre. Però il Sahara è stato per lunghi periodi una zona verde, con delle grandi vallate, dei fiumi che scorrevano, animali che si cibavano, e gli esseri umani entravano nel Sahara e poi ne uscivano fuori quando diventava arido. Quindi gli esseri umani, per esempio, hanno sempre attraversato il Sahara, come stanno facendo purtroppo adesso tante persone, per sfuggire a crisi spesso anche climatiche. Poi è successa quella cosa che dicevi tu, cioè gli esseri umani hanno imparato, potremmo dire, ad addomesticare il clima, ad adattarsi a climi molto diversi, attraverso i vestiti, attraverso le calzature, attraverso la costruzione di capanne. E a quel punto noi davvero siamo andati ovunque e abbiamo, come dire, siamo stati capaci di affrontare altri grandi cambiamenti, eruzioni vulcaniche, periodi freddi. Insomma, da lì in poi abbiamo dato inizio a quella corsa che ci ha portato a diventare 7 miliardi di individui, come dicevamo prima. Pensa che qualcuno adesso, per l'ultimo periodo della nostra evoluzione, parla di antropocene, cioè di un'era geologica che porta il nostro nome, antropocene, perché siamo stati così pervasivi, potremmo dire così invasivi, addirittura da trasformare la geologia del pianeta e il clima del pianeta. E questa è la grande eredità, che rischiosa per certi aspetti, che lasciamo proprio ai nostri ragazzi e ai figli dei nostri ragazzi. Esatto, sperando che possano studiare questa nuova era che appunto prende il nostro nome. Questo è il clima, questa è l'evoluzione. Adesso di tutto ciò ne parliamo con Alessandra Falconi e le sue dritte artistiche. Expo Kids, dire, fare, giocare. Diciamo, facciamo e giochiamo con Alessandra Falconi, atelierista metodo Bruno Munari e collaboratrice del blog disegnangolo.it. Ciao Alessandra, ben ritrovata. Ciao. Buongiorno a tutti voi. Allora, il clima cosa ti ha ispirato artisticamente? L'idea che proporrei oggi ai bambini è quella di disegnare la pioggia. Fantastico. Come si fa? Allora, si prende un foglio di carta bianca e una candela, vanno bene anche quelle dei compleanni, oppure le candeline, le bugie piccoline per le serate romantiche. Sì. Comincia a fare tanti trattini dal basso verso l'alto con la candela, posso decidere sia di riempire tutto il foglio se la mia pioggia sarà una tempesta, oppure se ci sarà una nuvoletta alla Fantozzi solamente delle aree del foglio. Ma candela accesa? No, no, no, candela spenta assolutamente, io uso la cera. Ok. No, altrimenti Fede facciamo un incendio. Con la candelina faccio questi segni, la tengo praticamente in mano come fosse un colore a cera, un pennello. L'importante è che il gesto vada dal basso verso l'alto, così quando la candelina tocca il foglio lascerà la parte di cera, diciamo, più grossa, sì. E poi dopo si andrà ad assottigliare. Fatto questo, prendo un colore a tempera, quello che mi piace di più, lo diluisco nell'acqua. Prendo anche una spugna, la bagno nel colore e comincio a spugnare tutto il mio foglio. Uh-huh. A questo punto c'è una bella sorpresa, perché il foglio si colorerà del colore che io sto passando con la spugna, ma dove c'è la cera il colore non attecchisce, e quindi potrò a sorpresa vedere una pioggia al tramonto, un temporale di notte, a seconda del colore che avevo in giro per casa, se era il rosso, il nero o i vari mescolamenti più interessanti. Che bello, un bel acquazzone estivo però colorato, quindi insomma assolutamente invitante. Ottimo spunto, grazie Alessandra. So che hai trovato anche una stanza della pioggia, di cosa si tratta? È un'installazione di un collettivo londinese, si chiama Rain Room, sì. Più di 100 metri quadri, praticamente una doccia enorme, dove la cosa molto divertente è che in realtà chi entra non si bagna mai, perché c'è un sistema di sensori meraviglioso, tu cammini nella pioggia e a seconda di come ti sposti avrai la pioggia ai tuoi lati, davanti o dietro, e quindi potrai percorrere un labirinto senza bagnarti dall'inizio alla fine. Per averne un assaggio visitate il sito disegnangolo.it, lì ci saranno tutte le informazioni e tante altre dritte per giocare con il clima. Ciao Alessandra, grazie. Ciao. Grazie a voi. Una filastrocca, la pubblicità e poi ancora Terra in Vista. La sete delle piante. Stanno le piante asciutte, coi loro steli secchi. Le foglie sono brutte, i fiori sono vecchi. Viene la pioggia lieve, viene la pioggia forte, e viene perché deve sconfiggere la morte. E steli, foglie, fiori, la sete più non hanno. Come dei freschi amori, le verdi piante stanno. State ascoltando un programma offerto da Coop. Ti aspetta nel supermercato del futuro, in Expo Milano 2015. Terra in vista. Terra in vista, l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici ogni settimana una parola. E io e Telmo Pievani abbiamo la fortuna di intervistare tanti esperti per cercare di raccontare l'Expo partendo dai contenuti. La parola di oggi è clima e cambiamento climatico, che è una parola centrale, e la stiamo sviscerando attraverso le domande poste dai bambini. Come si fa a prevedere il tempo? Beh sì, insomma, il clima porta al discorso del tempo. Il tempo, c'è cioè questa grande lotteria che è la previsione, no? Cercare di prevedere quello che accadrà. Tu hai sempre l'ombrello con te, Telmo? Sì, abbastanza. Pensa come sarebbe bello prevedere, poter fare una festa fra un mese e sapere che tempo ci sarà. Uh-huh. Vediamo se è possibile. Pensa che io non le guardo mai le previsioni del tempo, sono così, insomma, prendo quello che c'è. Ma andiamo a capire se e come si può prevedere il tempo. Lo facciamo insieme al meteorologo e divulgatore scientifico Luca Lombroso. Ciao Luca! Ciao ciao, se sentite dei din din sono dei capretti che corrono nei boschi. Questo perché appunto sei in università. Il bravo divulgatore scientifico è sempre sul campo. Esatto. Allora Luca, insomma, fare questa domanda a te sembra quasi una provocazione. Si può prevedere il tempo? Certo che si può prevedere il tempo. Dobbiamo distinguere anzitutto fra il tempo e il clima. Il tempo è quello che succede tutti i giorni, quindi la variabilità che c'è da un giorno all'altro, la pioggia, il tempo tale, eccetera, e le previsioni sono previsioni del tempo, appunto, che hanno una certa affidabilità. Uh-huh. Il clima sono le condizioni medie sul lungo periodo, lì trattiamo di scenari, di un'altra cosa. Certo. Le previsioni del tempo si fanno anzitutto osservando il tempo, quindi guardando le nuvole, guardando i quindi termometri, come faccio io? Apro la finestra e guardo com'è il tempo? Diciamo che la prima cosa che faccio al mattino io è guardare fuori dalla finestra prima di andare in bagno a lavarmi i denti, quindi di vedere se piove. Perdo la soddisfazione perché ormai le mie previsioni sono così perfette, ogni tanto mi sbaglio, ma è bello ogni tanto dire guarda che strano, nevica, non era previsto. Però la prima cosa, il primo elemento che uno deve è osservare il proprio ambiente, e questo ti dà delle previsioni per il posto dove sei tu e per poche ore, non di più. Se vogliamo delle previsioni per più giorni, allora tutti questi dati li dobbiamo prendere non solo da casa nostra ma da tutte le stazioni del mondo. L'atmosfera non ha confini, quindi gli stati, la cosa interessante, si scambiano i dati anche addirittura purtroppo in tempi di guerra, perché uh-huh. i dati di uno servono all'altro, e poi questi dati vanno dati in pasto a dei calcolatori che però sono istituiti dagli uomini, quindi dentro ci sono delle formule che rappresentano come funziona l'aria. Per esempio la cosa più banale è il vento, non è altro che aria che si sposta a una certa velocità, e quindi con un calcolo opportuno, se un'aria si sposta e si sposta una certa nuvola, possiamo prevedere dove arriverà dopo una, due ore. Questo l'ho semplificato molto. Sì, però perché quando parli di dati da raccogliere per prevedere il tempo, quali sono questi dati? Temperatura, umidità, pressione, velocità e direzione del vento, e che questi sono dati strumentali, e poi anche molti dati che sono importanti, che sono i dati a vista, cioè le nuvole, il tipo delle nuvole, la presenza o meno di nebbia e di altri fenomeni, che sono elementi proprio fondamentali per poi fare i vari calcoli che ci danno le previsioni usabili, diciamo, fino a 5-6 giorni di distanza. Ecco, io volevo sapere proprio questo, Luca, 5-6 giorni, quindi qual è il limite massimo? Se uno mi dice che tempo ci sarà fra una settimana, quindi non mi devo fidare, troppo incertezza. Dipende dalle situazioni, mediamente sono 5, 6, 7 giorni il tempo in cui le previsioni sono usabili. Naturalmente più si va in là col tempo, più si parla di più giorni, meno sono tagliate e precise. Per esempio, a 5 giorni possiamo prevedere grosso modo se ci sarà più caldo o più freddo, se si andrà verso un peggioramento o un miglioramento. A volte questo si può fare anche fino a 6, 7, 8 giorni, a volte un po' meno. Questo perché l'atmosfera è caotica, una farfalla batte le ali in Tibet e scatena un tornado in Texas. Questo è l'effetto farfalla, sì, lo conosco. Ma io da bambino mi chiedevo sempre perché la pioggia arriva sempre dalla Francia e dall'Atlantico? Ma essenzialmente perché le perturbazioni seguono le correnti occidentali, che sono praticamente guidate dal fatto della rotazione terrestre, insomma, col fatto che c'è la rotazione terrestre ci sono i venti che vanno da ovest verso est mediamente, quindi normalmente le perturbazioni viaggiano da ovest verso est, insomma, quindi le perturbazioni arrivano da lì. In Inghilterra è relativamente più facile prevedere il tempo perché non ci sono ostacoli, quindi uno vede una perturbazione sugli Stati Uniti, viaggia a una certa velocità, si ondula eccetera, però arriva in maniera abbastanza lineare. Quando arriva in Italia trova le Alpi, il Massiccio Centrale, i Pirenei, la Corsica, ed ecco che nasce la depressione sul Golfo di Genova, il vento si invortica, maestrale sulla Sardegna, libeccio sulla Toscana, poi dopo a seguire la bora sull'Adriatico, e siamo una delle zone più complicate del mondo per fare le previsioni. Luca, due domande sono, la prima è questa: adesso tutti guardano sui siti internet, sulle app, minuto per minuto queste previsioni del tempo, sono credibili? Non tanto, dipende, ce ne sono alcune abbastanza affidabili, altre un po' meno, ma attenzione che quando guardiamo su queste app il tempo in una località non sono le previsioni di un meteorologo, ma sono dei calcoli automatici, quindi con tutti i limiti che provano. I modelli hanno un certo dettaglio, questi calcoli di solito nel migliore dei casi di qualche decina di chilometri, quindi distinguere da un paesino all'altro o addirittura da un quartiere all'altro di una città non ha un gran senso. Ecco, non ha neanche un gran senso dire il tempo che fa ora per ora in una certa località. L'ho visto proprio in questi giorni, cioè ero sotto una cima di 2500 metri, si sentiva tuonare, si sentivano le prime gocce, e c'era della gente che diceva guardiamo nell'app se piove, ecco, ma non c'è, questa non ce ne azzecca neanche una. Ma in quelle condizioni lì la situazione già te lo dice, quando si sente tuonare in montagna è bene allontanarsi per la propria sicurezza. Assolutamente. I temporali sono proprio una delle cose che sfuggono maggiormente a queste previsioni numeriche automatiche, perché molto spesso sono piccoli, sono abbastanza locali. Ecco, l'altra domanda invece è quando si guarda un gran premio di automobilismo, a volte ti dicono fra 3 minuti in quella curva inizierà a piovere. Adesso sto esagerando, ma non di tanto. Si possono fare anche previsioni invece così precise? Ecco, questo entriamo in un altro tipo di previsione che si chiama il nowcasting, cioè praticamente adesso, che non è più basato sui modelli ma molto sull'osservazione, quindi sostanzialmente è una previsione che va entro pochissime ore. I dati fondamentali sono guardare le immagini da satellite, il tempo locale e soprattutto uno strumento veramente portentoso che è il radar meteorologico. Sostanzialmente un radar come quelli aeronautici tarato in un certo modo è in grado di vedere quanto e dove piove e come si sposta la pioggia. Sono strumenti che esistono già da molti anni, purtroppo l'Italia ha problemi gestionali tanto per cambiare di questi strumenti, però dove ci sono estremamente utili e oltre che per i gran premi usati adeguatamente potrebbero salvare le vite umane. Luca, per sapere che tempo farà è meglio chiederlo a un meteorologo o a un contadino? Beh, in qualche caso il contadino, l'agricoltore può conoscere molto il tempo locale, però non può andare oltre le poche ore. Uh-huh. Se vogliamo sapere il tempo oltre alcuni giorni dobbiamo chiederlo a un meteorologo oppure leggerlo da un meteorologo. In Italia non abbiamo purtroppo una realizzazione della professione del meteorologo, ma comunque abbiamo diversi centri d'eccellenza e anche alcuni centri privati. E più che le previsioni località per località col simboletto, che sono comode, sono intuitive, ma lasciano il tempo che trovano, bisogna prendersi il tempo di leggere un bollettino. Quindi leggere il testo, seguire il bollettino, soprattutto i bollettini locali e regionali, quindi nelle varie regioni dove ci sono i centri regionali, affidarsi a questo. Beh, insomma, certe previsioni lasciano il tempo che trovano, mi sembra che sia la frase migliore con cui chiudere questa chiacchierata. Ricordiamo Luca Lombroso, lombroso.it, il sito ufficiale per conoscere tutte le tue attività. Ciao Luca. Ciao, presto. Ciao a tutti. Buon terra in vista. Ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Paesi Bassi. Gli abitanti dei Paesi Bassi sono dei grandi innovatori, da sempre abituati a cercare di domare la natura per ottenere più spazio e terreni coltivabili. Le loro menti sono molto originali e questa volta hanno addirittura deciso di cercare più spazio nello spazio. Tutti sappiamo che vivere su Marte sarà possibile solo quando si potrà produrre cibo sul pianeta, dove purtroppo mancano gravità, atmosfera e abbastanza luce. L'università olandese di Wageningen, però, non si è data per vinta e ha cominciato a compiere ricerche sulla coltivazione delle piante su Marte. Ha avviato così un progetto pilota, ricreando le condizioni marziane e tentando di far crescere ben 14 specie di piante. Chissà che un domani non diventiamo tutti contadini spaziali. Beh, mentre pensiamo a Marte come possibile pianeta su cui andare a coltivare, torniamo invece con i piedi per terra. Telmo, insomma, quanto piacerebbe agli scienziati poter fare previsioni azzeccate? Beh, molte volte ci riescono e la scienza è ottima e utile per questo. Non sempre è possibile, però. Non sempre è possibile, però è vero, la scienza ha sempre avuto questa grande ambizione appassionante di prevedere il mondo, di prevedere le regolarità del mondo. Il tempo però è bizzarro, è difficilissimo, è imprevedibile perché, come abbiamo sentito, ci sono tantissimi fattori in gioco e forse questo è anche il bello, no? Che non tutto sia completamente prevedibile. Però noi possiamo fare tante cose importanti utilizzando la scienza, possiamo prevedere, come abbiamo visto, gli scenari, per esempio, ti faccio un esempio, riscaldamento climatico vuol dire che c'è più temperatura più alta, c'è più calore in circolo, c'è più energia in circolo, vuol dire che i fenomeni atmosferici diventano più violenti. Quindi non dobbiamo stupirci e dobbiamo prevedere il fatto che gli uragani saranno più forti, si muoveranno più velocemente, ci saranno gli tsunami, ci saranno grandi alternanze di tempo come purtroppo vediamo anche in Italia, quindi estati torride, inverni molto piovosi, molto freddi, insomma si radicalizza tutto. E questa è una previsione, no? Tu puoi sapere che succederà questo anche se non sai l'evento preciso. Oppure ti faccio un altro esempio di previsione. Adesso io prevedo che se prendo la parte alta della montagna, inizio a disboscare, tolgo tutti gli alberi, rendo i pendii scoscesi nudi, poi prendo i torrenti, i ruscelli, i fiumi, li incanalo dentro delle prigioni di cemento, poi li ricopro di asfalto. Beh, la previsione qual è? Che se piove tanto in montagna, l'acqua si trasforma in fango, scende dentro i torrenti, si incanala, diventa cattiva, violenta, diventa veloce, arriva in fondo e quando arriva in fondo si trascina via tutto. E se tu hai costruito delle case vicino all'alveo o sull'ansa di un fiume, ancora peggio, non c'è speranza, ci sarà una tragedia. Quella era una tragedia prevedibile, non era una fatalità. Noi dovremmo imparare questo, come hanno fatto tanti altri paesi. Quindi la scienza non sa dirti quando prevede un evento catastrofico, ma sa dirti qual è il rischio e sa anche dirti quali sono le azioni da evitare per non arrivare a quel punto. Dopodiché, se arriviamo a quel punto, è perché non siamo lungimiranti e non siamo capaci di prevedere come potremmo. Questa è la scienza, e adesso con la scienza ci giochiamo. Expo Kids, dire, fare, giocare. www.2science.it, il sito ufficiale dell'associazione 2Science, a cui appartiene il nostro giornalista scientifico Andrea Vico. Ciao Andrea. Buongiorno Federico e buongiorno anche a Telmo. Eccoci. È il momento appunto di giocare con i tuoi esperimenti. Oggi cosa hai preparato? Beh, giochiamo con l'effetto serra, ovvero, come abbiamo ascoltato, quella situazione che esiste già sulla nostra Terra. Se non ci fosse questa copertina che noi chiamiamo atmosfera di 300 chilometri che ci tiene un po' al calduccio perché intrappola i raggi del sole, la vita sulla Terra come la conosciamo oggi non ci sarebbe, e quindi è bene che ci sia l'effetto serra. Pianeti nudi di atmosfera non hanno sviluppato nulla di vita come la intendiamo noi. E ovviamente se questo aumenta e aumenta troppo repentinamente, ci sono tutti quegli effetti di cui Telmo ha appena parlato, quindi degli equilibri climatici a cui c'eravamo un po' abituati vengono a cambiare. Per apprezzare l'effetto serra costruiamo un forno solare che magari se andate in campeggio o avete un giardino può tornare molto utile. Gli ingredienti per questo esperimento sono molto semplici: un cartone di quelli per la pizza takeaway, quindi quelle scatole quadrate, rettangolari, molto, molto sottili, dell'alluminio, un po' di colla, un paio di stecconi che si usano per il barbecue e del cellophane, quindi non la pellicola per alimenti, ma magari uno di quei sacchetti per riporre la frutta quando l'acquistiamo al supermercato, quindi un cellophane quasi trasparente, comunque molto sottile, molto manipolabile. Okay. Quando il cartone che magari avete chiesto a un amico pizzaiolo è ancora smontato, quindi la scatola non si è ancora formata, rivestite l'interno incollandoci la pellicola di alluminio. Dopodiché montate il cartone, ma non chiudetelo, anzi usate i due stecconi da spiedino per tenere il coperchio sollevato, quindi un po' come se fossero i bastoni di una tenda che viene tenuta sollevata, e quindi si crea con il coperchio un angolo di almeno 45 gradi, probabilmente anche un po' di più. Dopodiché a questo punto avremo i due lati che disegneranno idealmente un triangolo e il fronte che sarà invece un rettangolo. Con il cellophane ritagliate abbondantemente due triangoli, quindi andate a sigillare questa scatola che rimane aperta grazie agli stecconi ai due lati, incollando il cellophane, e invece l'apertura chiudiamo, ma non in maniera fissa, ovvero incolliamo sul bordo superiore un quadrato di cellophane, ma lo lasciamo penzolare proprio come se fosse una tenda. Al limite lo fissiamo giusto con un pezzo di scotch alla base del cartone. In questo modo abbiamo costruito un forno solare, mettendolo al sole, tranquillamente si possono raggiungere più o meno in tutte le regioni d'Italia, quindi non è tanto questione di stare a Palermo piuttosto che a Trento, i 65-70 gradi, pensate, e quindi se avete un pentolino d'acqua potete cominciare a scaldarlo e verso le 5 o le 6 riuscire ad avere l'acqua calda per il tè, oppure se siete in un picnic e avete qualche cibo che volete intiepidire, non so, un pezzo di pizza, 5 minuti al sole con questo attrezzo e sicuramente avrete la pizza calda pronta per il pranzo. Perfetto, tutto ciò potete ritrovare tra i contributi extra sul sito radio24.it o sulla nostra pagina Facebook. Mandaci una foto così la mettiamo anche lì, che insieme alle istruzioni appunto uno può anche vedere quello che sarà il risultato finale. Un grazie come sempre ad Andrea Vico. Ciao Andrea. Ciao, a presto. Adesso ci fermiamo, una filastrocca, il traffico e poi ancora terra in vista. Le foglioline. Dicon le foglioline appena nate al vecchio tronco: nonno, l'hai sentite le rondini? Che splendide giornate. Vedi, non siamo più tutte aggrinzite. Ci siamo tese come le manine carezzose dei bimbi. E i freschi venti ci fan vispe come farfalline. E il sole ci fa tutte rilucenti. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Terra in Vista. Terra in Vista, oggi parliamo di clima con le vostre domande, con le domande dei giovani ascoltatori. Adesso si entra in un tema bello tosto e molto attuale. Questa è la domanda. Cosa sono le bombe d'acqua? Le bombe d'acqua, termine che da qualche anno è entrato nel nostro gergo, ci sono per davvero e cosa sono? Beh, lo chiediamo al nostro ospite, diamo il benvenuto a Claudia Pasquero, docente di fisica dell'atmosfera e oceanografia all'Università Milano Bicocca. Ciao Claudia, benvenuta a Terra in Vista. Ciao. Buongiorno. Allora, questa parola che fa anche paura, bomba d'acqua, esiste scientificamente? Allora, io la prima volta che ricordo di aver letto il termine bomba d'acqua era sul pacchetto di palloncini da riempire d'acqua e lanciarsi come gavettoni. È vero, è vero. E in effetti poi è stata utilizzata in modi un po' diversi. Noi preferiamo parlare di nubifragi, perché è un termine che è sempre esistito, perché le piogge intense sono sempre, sempre esistite. E il termine bomba d'acqua, tra l'altro, fa pensare a qualcosa di esplosivo, quando in realtà non c'è nulla che esploda nelle piogge intense. C'è un'affinità, chiaramente c'è un qualche cosa di simile con i gavettoni, perché se usciamo all'aria aperta durante un nubifragio è impossibile che torniamo a casa asciutti, quindi è come se ci avessero preso a gavettonate. Certo. Però sono sostanzialmente delle piogge molto molto intense. Con molto molto intense intendo che può piovere anche qualche decina di centimetri di acqua, può venire giù in una o due ore. Ma pensare a cosa vuol dire? Vuol dire che nel tempo in cui noi andiamo, che so, da usciamo di casa, andiamo a lezione di musica e torniamo a casa, sì, in quel tempo lì è venuta giù dell'acqua che ci potrebbe arrivare alle ginocchia. Quindi è tanta acqua che viene giù a goccioloni abbastanza grandi, possono, sono gocce che hanno più o meno le dimensioni di lo spessore di una matita, per farci un'idea, e vengono giù molto rapidamente, hanno anche velocità di 30 km all'ora, quindi tanta acqua che viene giù tutta insieme. Questo sono i nubifragi. Prima ci diceva Telma appunto di quanto questi nubifragi per esempio facciano tanti danni, anche perché l'uomo ha impattato poi nel territorio costruendo male, quindi c'è anche questo che va a influire molto. Tu sei esperta di fenomeni estremi che solitamente non eravamo abituati a viverli qua in Italia, per esempio. Sta cambiando così tanto il clima che fenomeni che non conoscevamo adesso invece entreranno a far parte della nostra normalità, della nostra quotidianità? Allora, attenzione, stavamo parlando di bombe d'acqua, è vero, 20 anni fa non esistevano le bombe d'acqua perché le si chiamava in un altro modo, non è che non esistesse il fenomeno. Ah. Alcuni dicono ce n'erano di meno, è vero, ne misuravamo di meno, ne conoscevamo di meno. Oggi facciamo molte più misure, guardiamo molto di più, ci guardiamo molto più attorno, abbiamo tutti lo smartphone, appena vediamo un sottopassaggio allagato facciamo la foto e la postiamo. 20 anni fa, ma anche solo 10 anni fa, il sottopasso inondato lo raccontavo a mia mamma quando tornavo a casa da scuola, perché l'avevo visto, quindi c'era meno informazione. Quindi abbiamo un'impressione che siano aumentati perché abbiamo più informazioni in generale, perché internet ci permette di diffondere le informazioni molto più rapidamente. Con questo non voglio dire che non ci sia nessun cambiamento, ne avete già parlato durante la chiacchierata che avete fatto oggi con gli altri ospiti, chiaramente ci sono dei cambiamenti e sembra che ci sia, per parlare di piogge, un'intensificazione delle piogge, cioè dalle nostre parti piove di meno globalmente, in media piove di meno, ma piove più tutto insieme e quindi diventano un pochino più intense le piogge. è molto difficile dire che cosa succederà nel futuro. Non cerchiamo però di fare del sensazionalismo dicendo stanno succedendo delle cose mai viste, perché l'Italia ha sempre avuto nubifragi per le caratteristiche che ha del territorio, vicino a un bacino, vicino al mar Mediterraneo, che è un mare caldo, c'è un sacco di evaporazione, quindi l'aria diventa molto ricca d'acqua, che poi precipita giù, che poi piove giù e può piovere tutte insieme. Le montagne che ci sono dalle nostre parti vicino alle coste favoriscono poi queste precipitazioni molto, molto intense, per cui io credo che oggi ci sia molta più spettacolarizzazione dei fenomeni. Forse c'è anche qualche cambiamento in atto, cioè cambiamenti ce ne sono di sicuro. Sui fenomeni estremi è molto più difficile dirlo, sulle ondate di calore è già più facile dirlo, ma su, in particolare sulle piogge è molto più difficile dirlo, e forse tra 10-20 anni sapremo dire qualcosa in più. Il cambiamento comunque c'è, è in atto, e questo è innegabile. Ma Claudia, quindi quando qualcuno dice che in Italia stiamo andando verso un clima sempre più tropicale, ci stiamo tropicalizzando, si sta esagerando o no? Allora, l'Italia si trova al confine tra la fascia climatica che è più secca, che è quella del Sahara, dei deserti, la fascia desertica tropicale, e le medie latitudini. Per cui, pur senza avere dei cambiamenti immensi, se si sposta un pochino il confine tra queste due fasce, se si sposta, si va un po' più in su o un po' più in giù, ecco che in Italia il clima cambia, e quindi possiamo avere in particolare al sud problemi di siccità molto più forti, e possiamo avere quindi un cambiamento del clima, proprio perché siamo in una zona che è molto sensibile, cioè siamo al confine tra zone climatiche diverse, quindi forse siamo più sentiamo più di altri i cambiamenti che ci possono essere. Poi si parla, ad esempio, mi viene in mente di parlare di tropicalizzazione, si parla dei cosiddetti uragani mediterranei. Gli uragani sono delle precipitazioni di nuovo molto molto intense che ci sono nelle fasce tropicali. Ciò nonostante, ogni tanto nelle zone mediterranee succedono. Si stanno diventando di più? Non stanno cambiando? Non lo so. Fino a poche decine d'anni fa non li conoscevamo questi fenomeni, perché non avevamo i satelliti che ci davano informazioni su che cosa succede nell'atmosfera. Insomma, non è facile dire di fenomeni così estremi, nel senso che ce ne sono pochi, se stiano cambiando in frequenza, in intensità, è troppo presto per dirlo. Nubifragi, trombe d'aria, uragani, solitamente sono associati ovviamente a disastri. Tu li studi, sì. E c'è anche un lato bello, però cosa ti affascina di questi fenomeni estremi? Allora, mi affascina l'acqua. Ma prima quando sai che prima quando descrivevi quella goccia, cioè ce l'hai proprio fatta vedere quella goccia così grande, così bella anche, perché insomma sì, è vero, capisco che ci sia proprio un fascino anche nell'immaginarsela e nel vederla artisticamente, diciamo. Sì, a me piace tantissimo l'acqua, infatti studio sia l'oceano che l'atmosfera, ma mi interessa di più la parte con l'acqua. Sono affascinata, mi piace fare i bagni, mi piace sguazzarci dentro. Sono un po' come Paperone nel deposito, no? Lui in mezzo ai soldi, io se sono nell'acqua sto bene. Quindi credo che... Poi ovviamente sono fenomeni estremi che possono portare a situazioni disastrose, e quindi è maggior ragione è importante studiarli per cercare di capirne qualcosa in più, fare delle previsioni e saper dire che cosa succederà, che può essere sempre utile. E questo, come abbiamo scoperto in questa puntata, è la scienza. Grazie davvero a Claudia Pasquero. Ciao Claudia, buona terra in vista. Ciao. Ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Sultanato del Brunei. Vi piacerebbe sapere come si mangia nel Sultanato del Brunei? Il Brunei è un vero e proprio hot pot di cucina malese e indiana. Aromi unici di una fusione culturale che declina armoniosamente le influenze di varie nazionalità che hanno attraversato il paese. Mercanti arabi, indiani e cinesi, esploratori europei e, ovviamente, abitanti della Malesia e del Borneo vi hanno introdotto i propri ingredienti e le proprie ricette. Il pesce e il riso sono i capisaldi dell'alimentazione del Brunei. Tra le ricette tipiche del Brunei ricordiamo il piatto nazionale, l'ambuyat, un composto appiccicoso e in sapore, ottenuto dal midollo della palma di sago, che viene raccolto con una forchetta di bambù e intinto in una salsa acidula alla frutta. Yuhu! E queste sono le cose che abbiamo imparato oggi. Che il clima cambia da sempre, ma adesso cambia troppo in fretta. Che se sei in montagna con un meteorologo e vedi che va al coperto, è meglio se vai con lui. Che le previsioni del tempo sulle app lasciano il tempo che trovano. Che in una bomba d'acqua l'acqua non esplode, ma cade e può fare male. Che il modo migliore per prevedere è prevenire. E questo è Terra in Vista. Un grazie a tutta la squadra: Margherita Aine, Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleoni oggi alla parte tecnica. Le attività pratiche, come sempre, sono state proposte da Andrea Vico e Alessandra Falconi. Tutto ciò lo potete ritrovare in rete sul nostro sito radio24.it. potete scriverci terrainvista@radio24.it, oppure andate nelle nostre pagine, lì ci sono tutti i contributi extra e la possibilità di ritrovare gli esperimenti, le attività pratiche, le filastrocche e gli expo pop. Quella che ascoltate invece è la sigla dei Matita. Infatti il suono è prodotto da pennarelli, matite e colori tracciati su dei fogli amplificati. Se volete conoscerli meglio, il sito è www.supermatita.org. Ciao Telmo, l'appuntamento alla prossima puntata, mi raccomando, eh? Ciao, a presto. Terra in Vista. Filastrocca dell'aria. Vado girando col naso all'aria, faccio discorsi campati in aria. Appena posso, sto a pancia all'aria, gioco a buttar le cose in aria. Se non ci sei, aria, mi manchi, e gli occhi miei diventano tristi. Se sei viziata, aria, mi stanchi. Ma se sei buona, grazie che esisti. Apro la bocca senza paura, mi piaci fresca, mi piaci pura. Aria, respiro e motore di vento, aria, accarezzami, che mi addormento.